Bentornate e bentornati all'Angolo Noir. Faremo un giro tortuoso attraverso ciò che lo compone, attraverso la sua indagine dell'oscurità, intesa come oscurità dell'animo umano. Vampiri e spettri si sono diffusi attraverso la letteratura, il cinema, i fumetti, la musica e la filosofia, perché evocano paure e terrori reali, sono una metafora di un male esistente. Non a caso il noir in Italia inizialmente è stato censurato ed osteggiato dal fascismo, che non voleva si denunciasse l'esistenza di mostri reali, quelli che ancora oggi ci succhiano il sangue e togliendoci il respiro ci fanno soffocare. You want to see. 1838 fa ingresso nel porto di Brema una bara dalla quale si diffonderà la peste. La porterà il conte Orlok, un vampiro creato da Murnau e introdotto in Germania nel 1922. La metafora è chiara. Lo spettro del nazismo inizia a diffondersi sempre più nella Germania e vuole essere, da un lato, il riconoscimento di terrori sotterranei che si stanno pian piano impadronendo delle menti tedesche, dall'altro, una critica ai tiranni e alla borghesia rappresentata da lunghi artigli e dalle movenze non umane di un ibrido a metà strada tra un pipistrello ed un insetto. La Germania non era nuova a questo tipo di metafore e di allegorie, già nella precedente filosofia hegeliana aveva fatto irruzione una comparazione tra il vampiro e il capitalismo, inteso come un mostro che succhia il sangue di persone alienate e sfruttate. Successivamente, nell'espressionismo tedesco, si riprendono ulteriormente dal Fausto di Goethe le altre figure demoniache che suonano essere una condanna di tutto quello che sarebbe di lì a poco avvenuto in un quadro di luce d'ombre, di cunicoli, di viuzze aggrovigliate, si vuol far emergere il conflitto interiore della psiche nel suo contorno umano. Così come Nosferatu il vampiro, il capolavoro espressionista di Murnau, o il remake di Herzog del 1979, Nosferatu il principe della notte, devono molto alla penna di John Polidori, che per primo ha introdotto la figura del vampiro. Ugualmente, l'immaginario femminile della vampira deve molto a Sheridan Le Fanu, che nel 1872 tratteggia e inventa Carmilla, la prima donna vampira. Da allora, la donna vampira irrompe nella poesia, nell'arte e nel cinema, molto spesso associata all'idea di un mostro che succhia il sangue di un uomo soggiogato ed illuso. Il pittore Munch, nel descrivere il suo quadro La donna vampira, nei suoi diari scrive: «I suoi capelli rosso sangue si erano impigliati in me, si erano avvolti intorno a me come serpenti rosso sangue, i loro lacci più sottili si erano avvolti intorno al mio cuore». Non è l'unico. Se ci spostiamo nei fiori del male di Baudelaire, nel vampiro leggiamo: «O tu, che come un coltello sei penetrata nel mio cuore gemente, o tu, che come un branco di demoni venisti, folle ornatissima, a fare del mio spirito umiliato il tuo letto e il tuo regno, infame, cui sono legato come il forzato alla catena, come il giocatore testardo al gioco, come l'ubriaco alla bottiglia, come vermi alla carogna, maledetta, sì tu maledetta. Ho chiesto alla veloce lama di farmi riconquistare la libertà, ho detto al perfido veleno di venire in soccorso della mia vigliaccheria, ahimè, che il veleno e la lama mi hanno disdegnato e mi hanno detto: tu non sei degno di venir sottratto alla tua maledetta schiavitù, imbecille. Se i nostri sforzi ti liberassero, i tuoi baci risusciterebbero il cadavere del tuo vampiro. Dedito ergo sum, pecco e dunque esisto, dirà la vampira di Abel Ferrara in The Addiction, che come quella di Jarmusch in Dolly Lovers Left Alive vive un estremo capovolgimento di ruoli. Le vampire sono vittime di una società marcia e corrotta al suo interno e finiscono con il succhiare il sangue per punire un'umanità ormai abietta. Una società marcia e corrotta al suo interno diviene il tema principale del noir agli inizi degli anni 20 del XX secolo, quando, allontanandosi dal gotico e dai vampiri, si tinge di un giallo poliziesco. È un poliziesco diverso, è visto dagli occhi della vittima, che viene perseguitata non tanto e non solo da un criminale, ma da un sistema politico e legale corrotto al suo interno. La vittima, con qualità autodistruttive, viene descritta all'interno di racconti che compongono il nuovo genere noir, definito hard-boiled e pubblicato all'interno di riviste di basso prezzo che si chiamavano Pulp Fiction, successivamente abbreviate in pulp, che diviene il sinonimo di hard-boiled. Una rivista pulp, una Drum Machine Roland TR-808 e TR-909 ed una serie Black Panther Long Live to the King si intrecciano nella lotta afroamericana. Come? Quando? Occorre fare un salto al 1966, quando dalla penna di Stan Lee e dai disegni di Jack Kirby nasce un fumetto, Pantera Nera. Il fumetto era stato così chiamato per la figura dell'animale che lo accompagnava in una serie di racconti che erano stati pubblicati in delle riviste pulp e che nel 2017 avevano ispirato la serie Black Panther portata avanti dalla scrittrice Okorafor in aderenza alla sua appartenenza al movimento afrofuturista. Movimento colmo di allusioni all'animismo e al simbolismo nasce dalla lotta dei neri per la conquista degli stessi diritti dei bianchi e per poter essere coinvolte alla fine degli anni 70 nel discorso sul futuro dello sviluppo tecnologico, nella lotta del superamento del concetto di razza e del concetto di schiavismo che ha come suo corrispettivo l'alieno e il robot nella letteratura fantascientifica, l'immaginario nero si tinge di colori psichedelici, di elementi rituali e surreali ripresi dalla fantascienza, dalla tecnologia, dal misticismo africano e dalle religioni ancestrali, quali quella egizia e quella voodoo. Molti sono gli esponenti fra teorici e scrittori, fra i pittori vi è Basquiat, fra i musicisti il jazzista Sarrà, la techno di Detroit e Jimi Hendrix. Pantere Nera era stato pubblicato nel 1966 dalla Marvel, gruppo sussidiario della Walt Disney Company, che presto cambia il nome in Leopardo Nero. Sente l'esigenza di distanziarsi dall'omonimo movimento, le Pantere Nere, che in quel periodo dettavano forti e chiari i loro 10 punti programmatici. 1. Libertà. 2. Occupazione. 3. Fine della rapina della nostra comunità da parte dei bianchi. 4. Abitazioni. 5. Istruzione. 6. Esenzione dal servizio militare. 7. Fine immediata della brutalità della polizia e dell'assassinio della gente nera. 8. Libertà per i neri detenuti nelle prigioni, carceri federali, statali, contee municipali. 9. La gente nera rinviata a giudizio deve essere giudicata da un tribunale dei neri. 10. Giustizia. Questi punti erano stati diffusi da Wesley Cook, meglio noto come Mumia Abu Jamal, la voce dei senza voce, che era stato conosciuto per le sue critiche al sistema corrotto giudiziario e della polizia, e per questo era entrato a far parte del mirino del COINTELPRO. Counter Intelligence Program era un programma di infiltrazione e controspionaggio dell'FBI illegale attivo tra il 56 e il 71. I principali perseguitati erano le femministe, i comunisti, gli oppositori alla guerra del Vietnam, ambientalisti, animalisti e Mumia Abu Jamal, che nel 1981 viene condannato per l'omicidio senza prove del poliziotto Faulkner e da allora è ancora in carcere all'ergastolo. operating on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Anger is a gift. A non prendere le distanze dal movimento delle Pantere Nere sarà il documentario nel 1970 di Antonello Branca, Seize the Time, afferra il tempo, girato direttamente all'interno del movimento. Da una lettera inviata al Ministero del Turismo e dello Spettacolo di Roma per spiegare le ragioni per le quali il film non verrà doppiato, si può leggere quanto segue. Il film ha valore di documentario di livello sociologico ed antropologico, dunque, per motivi di veridicità e di fedele aderenza alla realtà sociale, è stato girato in presa diretta. La scelta di girare il film con tale tecnica nasce dall'esigenza di dare omogeneità tra i contenuti sociali e la forma cinematografica. Per tale ragione non vi sarà alcuna costruzione cinematografica, né in senso specifico, né ricostruzione in studio o in esterno, ma ne deriva uno stile a metà tra il cinema verité e il teatro di guerriglia. Un metodo che intende fondere la forma ai contenuti politici che intende rappresentare. Per tale ragione, anche gli attori non saranno attori professionisti, ad eccezione dello studente Norman Jacob, che svolge un ruolo principale nella prima parte e che lascia poi nella seconda spazio alla società americana. Società che viene rappresentata da personaggi bianchi che sono cittadini americani realmente impiegati nelle posizioni sociali occupate dai personaggi del documento cinematografico. Il film ha dialoghi rari, per la stessa ragione si riteneva che ogni dialogo poteva, almeno in parte, risultare un arbitrio dell'autore o comunque una forzatura della realtà rappresentata e dunque in questo modo alterare la società americana chiamata direttamente in causa. I dialoghi, quando presenti, sono improvvisati e servono come commento alle varie sequenze. Se il movimento delle Pantere Nere è centrale nel documentario di Branca, è sullo sfondo nel film di Antonioni, Zabriskie Point. E con il finale di questo film termino oggi il nostro giro tortuoso. Buon ascolto e al prossimo mercoledì.